L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, quello della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Questa settimana ci chiediamo: sono sostenibili e amiche dell'ambiente, appunto, ma anche dell'uomo, le centrali a biomassa? Se ne progettano e se ne realizzano sempre di più in Italia. A volte sono ben accette, altre osteggiate dalla popolazione, come nella denuncia che ci è arrivata dal comitato Vivere a Predosa, una località di meno di 2.000 abitanti in provincia di Alessandria. Informati del progetto di costruzione di una centrale nel loro comune, i cittadini hanno organizzato la rivolta. Qui con noi rappresenta il comitato il medico Lelio Morricone. Il progetto consiste nel attivare una centrale a biomasse legnose allo scopo di produrre una quota parte di energia elettrica da rivendere, da immettere in rete, rivendere, quindi utilizzando così poi i finanziamenti pubblici che lo Stato italiano mette a disposizione per le cosiddette energie rinnovabili, e per il resto utilizzare il calore prodotto a fini privati di un imprenditore. Si tratta di una centrale di circa 5,6 megawatt, che, tanto perché tutti gli ascoltatori possano comprenderne la proporzione, per funzionare deve bruciare circa 16.000, ripeto, 16.000 tonnellate di legna all'anno. Cos'è una centrale a biomassa? Un impianto in cui si ricavano elettricità e calore da vari materiali di origine biologica, principalmente legname, residui e scarti agricoli o forestali. Il più diffuso impianto di questo tipo è in sostanza una grossa caldaia che brucia quegli scarti. Vivere a Predosa si è unito ad altri comitati piemontesi nel coordinamento No Biomasse, che cerca di opporsi, non per principio ma per razionalizzare, all'indiscriminata costruzione di centrali sul territorio regionale piemontese. Grazie alla redditività garantita dai finanziamenti pubblici e al vuoto legislativo, così denunciano i comitati, in Piemonte sono ormai 270 le richieste di autorizzazione per centrali a biomassa. Troppe, perché nei confini stessi della regione ci sia di che alimentarle. Ci sono delle indicazioni che la provincia dà, che prescrivono che la legna arrivi da un raggio non superiore a 70 chilometri, il che vuol dire diametro 140 chilometri. È verosimilmente poco probabile che questo possa accadere, dal momento in cui in Piemonte adesso ci sono quasi 300 domande di autorizzazione per centrale a biomasse, e ci vorrebbe una regione grande come 7 volte il Piemonte, solo coltivata ad alberi, per poterle alimentare tutte. Quindi naturalmente i cittadini hanno poi la legittima preoccupazione che possa succedere qualcosa, come purtroppo è successo in altre circostanze, è sulla cronaca di tutti i giorni. L'ultimo episodio è quella della centrale del riso Scotti, no? Che doveva bruciare i residui di lavorazione del riso e poi bruciava la spazzatura. Ma, e qui è proprio il caso di dirlo, non si può fare di tutta l'erba un fascio. Una quarantina di chilometri più a sud di Predosa, in Valle Stura, Liguria, sono in funzione tre impianti a biomassa, a Campo Ligure, Rossiglione e Masone. Nacquero in seguito a una terribile gelata che nel 1997 devastò la vegetazione. Di fronte al disastro, la comunità montana decise di intervenire e trasformare la disgrazia in risorsa. Come si dovrebbe sempre fare, fu steso un piano, furono individuati dei soggetti interessati, si costituì un consorzio forestale e si pensò a cosa fare dei boschi e del legno. Per gli scarti e le ramaglie di minor pregio, la risposta fu centrale a biomassa. Qui quindi il progetto è nato come parte di una filiera bosco-energia che collega le centrali al territorio. L'ingegner Luca Marigo, del Thermochemical Power Group, spin-off dell'Università di Genova, seguì il progetto Valle Stura. È una delle prime filiere in Italia, attualmente anche una delle pochissime, forse uniche, che ha una filiera bosco-energia, non legno-energia. Cioè lì il bosco è l'elemento primo che finisce in centrale, e questo viene tutto certificato con una provenienza, con un sistema informatico di mappatura delle aree da cui viene fatto il taglio, l'esbosco, il ripristino, la valorizzazione del territorio. Quindi ha una certificazione che applicarla in altre realtà è molto costosa, perché fa fa impennare il prezzo del cippato, però in una fase di studio, di rispetto dell'impatto ambientale, eccetera, invece si è andata a sposare molto positivamente. Da dove arriva la legna per alimentare queste centrali? Nel raggio di una decina di chilometri, quindi da boschi completamente autoctoni della Valle Stura, principalmente Rossiglione, Campo Ligure, principalmente come bacino di affluenza. Proprio perché un modello quasi unico, purtroppo non ripetuto, il progetto della Valle Stura verrà illustrato ad Energetica, mostra convegno dedicata all'energia sostenibile in programma a Torino la prossima settimana, dal 7 al 9 aprile. Ma che cosa alimentano queste centrali della Valle Stura? Una produzione termica di 3 MW e 100 complessiva. Alimentano strutture prevalentemente pubbliche, comune, scuole materne, elementari, municipio, cinema, Croce Rossa. E da 2 anni o 3 anni, adesso, no, forse dal 2008, quindi ormai 3 anni, è stata lasciata una grossa utenza condominiale. Dai 3 MW complessivi in 3 centrali, torniamo a Predosa. Quasi 5,6 MW previsti in un solo impianto. Sono assai meno precise le indicazioni sulla filiera che alimenterà la centrale, dice il dottor Morricone del Comitato per il No. Questo non è assolutamente specificato. Il proponente sostiene di avere di queste 16.000 tonnellate una parte che è oltre la metà di scarti della sua lavorazione, non meglio precisata, e sono tra l'altro tavole di legno che non si capisce da dove vengano, perché magari vengono dall'est o chissà da dove, e poi per il resto dice che se lo procurerà in un'area circostante. A non volergli male, questo progetto soffre come minimo di cattiva comunicazione, se non sono chiari nemmeno i benefici per la comunità. Ricordiamo, meno di 2000 anime che dovrebbe accogliere l'impianto. La centrale, con una potenza di 5,6, produce energia elettrica solo per uno, quindi sostanzialmente il resto serve per la produzione di calore. Però l'impianto che dovrà sfruttare al meglio questo calore non esiste ancora, la provincia ha concesso un'autorizzazione dicendo che l'essiccatoio verrà costruito entro 3 anni. E in questi 3 anni questa potenza termica verrà dispersa e dissipata in atmosfera. Questo progetto fin dall'inizio non prevede in alcun modo alcun tipo di vantaggi, diciamo così, per la collettività, per la popolazione e per il territorio comunale. Nell'esperienza dell'ingegner Marigo, dell'Università di Genova, che ha seguito il progetto della Valle Stura, è invece imprescindibile che si consideri il territorio e le sue possibilità di accettare una centrale, anche perché molti progetti finiscono con l'arenarsi, proprio perché non hanno tenuto in considerazione la realtà. Deve essere il territorio che dice, il territorio può apportare senza nessun dispendio ambientale ed energetico tot legna, la centrale va sposata su quel territorio lì. Oppure quel territorio può ricevere sottoprodotti legnosi, stalci di potatura per questo approvvigionamento, ma non siamo favorevoli a movimentare, altrimenti si perde il concetto di fonte rinnovabile, movimentare grossi quantitativi di legna da importazioni o spostarle a 50-100 km. Ecco. Io mi occupo di biomasse da 13 anni, in 13 anni io ho visto moltissimi progetti che sono stati fatti con la logica opposta, cioè con la logica imprenditoriale, ossia fare biomassa porta un reddito elevato perché l'incentivo è alto. Io vado a fare l'impianto, io propongo il progetto e poi lo scelgo dove metterlo. E quindi erano in progetti di impianti da 3 MW, 5 MW, impianti molto grandi, che comportano una difficoltà nell'approvvigionamento, sono impianti che non si sposano molto bene col territorio, sono realtà molto rare che possono accoglierli. E giustamente poi si sono arenati in sede di o autorizzazione o comunque di accettabilità sociale. Ecco. Da quando è nato il comitato Vivere a Predosa, il dottor Morricone, che è anche un dirigente del Policlinico San Donato, vicino a Milano, si è fatto una cultura in materia di biomassa. Bruciare legna, dice, è pericoloso perché comporta emissioni di particolato, ossidi di azoto, diossine, dispersione con ceneri di metalli pesanti e può produrre anche sostanze cancerogene. Tuttavia, ammette, in certi luoghi può essere utile costruire queste centrali. Sì. In una determinata zona geografica, dove per esempio ci sono 100 case che si scaldano a legna, si attiva una centrale di queste e accendendo un unico grosso camino, se ne spengono 100, grazie per esempio al teleriscaldamento e alla fornitura di energia elettrica. Questo può determinare anche un bilancio energetico positivo, quindi potrebbe anche essere una fonte energetica in questo caso utilizzabile, ma è quello che succede normalmente soprattutto in Nord Europa, ma anche in Austria, persino in Svizzera. Al contrario, se una cosa del genere viene accesa solo per produrre profitto e per riscaldare dei capannoni, evidentemente questo con le fonti rinnovabili non c'entra assolutamente niente. Silvio Gentile invece è amministratore delegato di Green Utility, azienda specializzata nel sostegno alla realizzazione di impianti da energie rinnovabili. Proprio in questi giorni, tra l'altro, ha ricevuto una medaglia d'oro del Presidente della Repubblica quale imprenditore che ha proposto buone pratiche e tecnologie per l'ambiente urbano e le città sostenibili. Gentile conosce bene l'importanza della filiera per l'alimentazione di una centrale a biomassa. In tanti l'hanno scoperto troppo tardi, dice. Ha senso fare investire nelle biomasse laddove noi possiamo avere una certezza sulla filiera. Questo significa quasi automaticamente che possiamo e dobbiamo valorizzare tutte le biomasse, ma quelle a filiera corta. Sulla filiera lunga ci troviamo di fronte problemi che sono stati, devo dire, dagli stessi operatori del settore fortemente sottovalutati, e quindi ci troviamo oggi in un settore che spesso ha piani di impresa totalmente saltati, rapporti con banche di conseguenza tese, perché non è così facile assicurare l'approvvigionamento di biomassa da prodotta a 10.000 km di distanza in altri continenti, quindi con un rischio di approvvigionamento elevatissimo. In Liguria però di filiere bosco-energia come quella della Valle Stura non se ne sono fatte più, mentre il Piemonte, come dicevamo, deve valutare 270 richieste per centrali a biomasse che mai e poi mai potrà alimentare con materiale autoctono. Davvero però ci domandiamo, non c'è altra destinazione che una gran caldaia per legna, sottoprodotti e scarti di agricoltura? No, dicono alla italianissima BioEast. Anche senza bruciarle, dalle biomasse si può ottenere energia e per di più ricavare cibo buono per persone e animali. Pierpaolo Dell'Omo, ingegnere, si occupa di ricerche e sviluppo alla BioEast. Noi abbiamo lavorato su un sistema di disaggregazione delle strutture vegetali, di disaggregazione della materia. Non ha senso bruciare tutto quando in un materiale lignocellulosico ho delle parti pregiate che possono essere la cellulosa o le emicellulose, che possono essere interessanti sia per un discorso alimentare zootecnico le emicellulose oppure anche per un discorso di industria chimica, cioè parlo di materiali plastici biologici, oppure la cellulosa per il discorso bioetanolo. L'inventore del sistema è un altro ingegnere, Umberto Manola, cresciuto nell'ambito dell'industria molitoria. E infatti il processo che ci descrive Dell'Omo ricorda molto quello per ottenere le farine, senza però rulli macinanti. È un processo di disaggregazione che sfrutta in qualche modo la forza dell'aria, quindi la velocità di correnti d'aria che provocano degli urti tra le particelle della biomassa. Quindi è estremamente facile da gestire perché in pratica l'unica cosa che occorre è l'alimentazione elettrica del sistema. E non ha bisogno di acqua, non ha bisogno di additivi chimici, praticamente consuma solo energia elettrica e, cosa molto importante, non produce reflui. Può essere utilizzata in una piccola azienda agricola oppure in una grande industria. La tecnologia EAST è interessante per i paesi in via di sviluppo, soprattutto per quanto riguarda la produzione alimentare, ma può servire anche in altri settori, sostiene Daniele Lattanzi, che per BioEAST si occupa di business development. I mercati che stanno spingendo fortemente sono sicuramente quelli legati alle materie prime, alimentazione, quindi una tecnologia come quella EAST in realtà permette di sfruttare al massimo quello che prima veniva considerato uno scarto, che oggi non lo è più. Poi il settore delle energie rinnovabili. L'Italia, pur essendo abbastanza all'avanguardia sulle rinnovabili, sfrutta poco le biomasse. Ovviamente in un paese come il nostro potrebbe essere una grossa risorsa. Quello senz'altro, però mi sembra più in generale il problema delle biomasse sia anche non solo creare la centrale, ma la filiera che poi alimenta questa centrale. Che è un... Guardi, su questo le faccio un esempio, anche all'interno di un mulino, quindi un esempio molto semplice. L'introduzione della tecnologia permette di rendere più efficienti dei processi che già sono in atto, quindi per un imprenditore non significa, al di là dell'investimento, non significa stravolgere il ciclo produttivo. Insomma, un altro promettente frutto della ricerca italiana. L'altro pianeta. Eccoci bentornati alla seconda parte dell'altro pianeta. Nella prima abbiamo parlato di centrali a biomassa e se volete riascoltarci da lunedì potrete farlo scaricando la puntata dal sito internet di Radio 24. Ora è il momento dell'intervista di Cristina Carpinelli. L'ospite che è con noi oggi è lo scrittore Edoardo Galeano. Galeano lo abbiamo incontrato qualche tempo fa alla presentazione di uno dei suoi ultimi libri e dall'intervista è stato estrapolato solo quello che serviva per l'attualità. Ma quello che vi proponiamo oggi è un estratto di quell'intervista concentrato soprattutto sui temi della natura e del tempo. Perché io credo che l'universo solo può essere visto por el ojo de la cerradura, ossia che è la storia pequeñita la che può illuminare la storia grande. Il concetto che cerco di esprimere è che il mondo può essere visto solo attraverso il buco della serratura, cioè che le storie piccole sono quelle in grado di illuminare le storie grandi, che solo attraverso il particolare si può vedere il grande. E questo non avviene solo nel mio libro, ma nella vita quotidiana. Ci sono episodi apparentemente insignificanti che in realtà sono pieni di significati, perché contengono magia che deve essere condivisa. Si tratta di una magia che dipende dalla terra, dalla natura, ma che l'uomo non vede perché sta diventando cieco, non è più in grado di vedere la luce del mondo. Perché siamo ciegos delle luci del mondo. Questo in qualche modo si collega anche al concetto di tempo. La nostra società è segnata dall'aspettativa nel futuro, vuole costruire, progettare, essere in un posto mentre è in un altro. Si vive nel virtuale, tutto ciò che è naturale sembra utile solo come cura. Parliamo della natura, ci rivolgiamo a lei solo come curatrice, invece potrebbe essere parte della nostra vita, dovrebbe essere parte della nostra vita. E questo è in fondo forse il male più insidioso della nostra epoca. In questo senso il presente come piccolo, attuale, ora non ha valore per noi. Si chiama Bocas del Tempo perché io credo che il tempo... Sì, e infatti uno dei miei libri si chiama Le Labbra del Tempo e parla di questo tempo che è padre e madre di tutti noi e che si prende gioco di coloro che vogliono inseguirlo con le macchine. Si prende gioco di tutto ciò che facciamo per credere di essere padroni del tempo. Non vogliamo accettare il fatto che il tempo è padrone, ma tutto questo ha poca importanza per il tempo stesso. Para creer que somos dueños del tempo... tiene poca importanza per il tempo. Visto che sta parlando di tempo padrone, qual è allora la libertà dell'uomo? Io credo che cada uno de los actos presentes está lleno de pasado y también lleno de futuro. Io credo che noi non siamo condannati a ripetere la storia, che il tempo non si ripete, che le cose non si ripetono mai e che noi come esseri umani abbiamo la libertà di costruire la storia dell'umanità, perché la storia è un atto o una successione di atti di libertà umani. La libertà è una porta, però è una porta pesante. Secondo lei l'uomo sarà in grado di accettare i propri errori rispetto alla natura e cominciare un percorso serio e di profondo rispetto verso la terra? Non so, credo che si debba stare attenti e non avere paura. Perché la paura è nemica della libertà, perché è un gas paralizzante. La paura è quella cosa che ripete ossessivamente non si può, non si può. Attenzione, non puoi farlo. E per questo è nemico della libertà. Ma ora noi dobbiamo recuperare la libertà e lo faremo solo praticando. Per praticarla hai che liberarsi del miedo. In questo libro, Labbra del Tempo... Sai, nel libro Le Labbra del Tempo ho raccolto delle storie reali e una di queste parla ad esempio di ciò che accadde l'11 settembre 2001 a New York, quando il secondo aereo non era ancora entrato nella Torre Gemella. Molta gente aveva cominciato a correre per uscire, ma una voce dall'altoparlante ripeteva: «Tornate ai vostri posti di lavoro!» Chi si è salvato in quel caso? Si salvarono quelli che non obbedivano. Si sono salvati quelli che non hanno obbedito. Io credo dunque che ogni storia che la realtà ti regala sia la metafora del mondo e quindi una metafora del tempo. Si salvarono los que no obedecieron a las voces del poder que mandaba morir. Yo creo que cada pequeña historia que la realidad te regala, que la realidad te ofrece, es de algún modo una metáfora del mundo. Grazie a Cristina Carpinelli e andiamo all'altra nostra rubrica, articolo 9, come l'articolo della Costituzione italiana che dice «La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione». Marco Carminati ci segnala il bene italiano da salvare di questa settimana. Buongiorno, eccoci qui, siamo in collegamento con Ilaria Buitoni Borletti, la presidente del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Buongiorno presidente. Buongiorno, ecco, lei è reduce da un grande lavoro, avete fatto la giornata di primavera che quest'anno è stato un grandissimo successo, il FAI ha aperto siti, monumenti, luoghi di natura a tutti gli italiani e gli italiani hanno risposto con grande attenzione e con grande amore a questo vostro impegno di farci conoscere il paese. Però adesso, finita questa eccezionale momento, tornate per così dire all'ordinaria amministrazione, affrontando naturalmente tanti problemi di salvaguardia dei monumenti ma anche del paesaggio italiano. E so che lei oggi vuole portarci a conoscere un caso molto particolare in Calabria. Dove ci porta, presidente? Dunque, andiamo in provincia di Catanzaro. Intanto vorrei dire che ho scelto la Calabria perché la Calabria è una regione di una bellezza straordinaria che non solo merita di essere conosciuta, ma è proprio una di quelle regioni italiane che, se si fosse valorizzato bene il patrimonio culturale, anche quello di natura, avrebbe avuto probabilmente una vocazione allo sviluppo meno difficile di quella che ha avuto. Qui andiamo in provincia di Catanzaro, a Sant'Andrea Ionico, che è una zona molto particolare perché è bellissima sia la parte sul mare, dove si trova questa spiaggia, che poi tutto l'entroterra. Ecco, quindi voi avete, diciamo così, il vostro impegno è proprio legato, lei alludeva alla spiaggia, se non erro. Sì, è legato alla spiaggia. In quest'area c'è un pezzo di spiaggia che è ancora completamente intatto, ma la cosa che rende questa spiaggia veramente straordinaria è il fatto che lì le tartarughe carretta vengono a depositare le loro uova e che naturalmente poi si schiudono, e questo è anche così un momento che porta molti appassionati ad assistere a questo evento. Questo progetto, che è un progetto seguito dall'Università di Cosenza, è un progetto che potrebbe, e qui subentra il FAI, essere ampliato se questo pezzo di spiaggia viene naturalmente conservato nella sua integrità per garantire questo evento nel massimo della tranquillità, e diventare quindi Sant'Andrea un po' la nursery di tutte le tartarughe di quell'area e di tutta quella regione, che verrebbero anche portate lì per depositare le uova in una condizione, diciamo, di un sistema protetto. Presidente, lei quello che dice è straordinario e anche commovente, l'idea che ci sia una spiaggia dove nascono le tartarughe, ma che pericolo incombe su questo luogo se voi del FAI dovete intervenire? Ma il pericolo che incombe è quello che su quella spiaggia, come peraltro avviene in tutte le spiagge italiane purtroppo, nella parte, diciamo, interna comincino a costruire, quindi distruggendo quella fascia di aranceti che fa parte anche della bellezza del luogo, e sulla spiaggia cominciano a mettere quegli stabilimenti balneari che sono così portatori poi di chiasso, portatori di disordine, portatori di tutta una serie di elementi che disturberebbero invece il percorso naturalistico che noi vorremmo fare. Bisogna anche dire che questa spiaggia si inserisce in una zona dove a 20 minuti da lì parte la bellissima area naturale delle Valli Cupe, che è una zona di grande rilevanza naturalistica, quindi significherebbe valorizzare un po' la vocazione di questo posto e di questa parte della Calabria, il che mi parrebbe importante anche da un punto di vista turistico, però naturalmente ci sono sempre delle ambizioni magari che riguardano gli interessi di poche persone e che non vogliono vedere il progetto nella sua totalità. Benissimo, allora speriamo che il FAI prenda in mano, come in tanti altri casi in Italia, la gestione di questo angolo di paradiso. E lei già alludeva a un percorso, ecco, che cosa farete se potrete davvero prendere in gestione la spiaggia di Sant'Andrea? Ma intanto noi faremo dei lidi modello, abbiamo chiesto persino a Pistoletto di disegnarli, cioè dei lidi che siano ecologicamente fatti in un modo tale, non solo da un punto di vista proprio estetico, ma anche proprio della ragione per cui ci si trova in un contesto di un'area naturalistica. Poi ci legheremo appunto all'associazione che si occupa degli itinerari nelle valli cupe per creare proprio un percorso naturalistico che possa durare anche alcuni giorni. Va anche ricordato che invece dietro Sant'Andrea Ionico, salendo per queste montagne impervie che coprono una parte della regione Calabria, c'è poi invece tutta una parte di interesse storico, perché lì ci sono questi monasteri romanici che sono ancora abitati da monaci ortodossi come quello di Bivoncio, come tutta l'area dietro Stilo, che potrebbero veramente arricchire questo piccolo comune calabro di una tale ricchezza da un punto di vista naturalistico e architettonico da poter contare su un turismo molto maggiore, molto più qualificato di quello che attualmente hanno, che è stagionale e locale. Insomma, Presidente, allora speriamo davvero che voi a breve abbiate in gestione questa spiaggia, avremo un lido d'artista, avremo delle tartarughe tranquille e un angolo d'Italia salvato. Grazie Presidente. Grazie a voi. E speriamo di averla presto ancora in collegamento con noi per raccontare con gli occhi del FAI la nostra Italia, i suoi problemi ma anche le sue bellezze. Grazie agli ascoltatori. E con questa segnalazione di Marco Carminati è tutto anche per questa settimana. Per riascoltarci vi ricordo il sito internet di Radio 24, c'è anche l'indirizzo email di questa trasmissione se volete scriverci, l'altropianeta@radio24.it, oppure potete scrivere direttamente a me, laura.bettini@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana alla stessa ora.